piano. Di Enrico Ruggeri. Quella che vi voglio raccontare oggi è una storia, come dire, piena di avventure, ma dal punto di vista dei meccanismi dell'anima, una storia molto complessa, è una storia indubbiamente di coraggio, ma è una storia molto complicata, che sfiora l'ambiguo. È la storia di un uomo, un agente dell'FBI, che ha vissuto per anni a fianco di delinquenti e criminali, ma proprio criminali, quelli per i quali la vita umana non vale neanche il gusto di una pallottola. È uno che ha mangiato quei criminali, bevuto con loro, ha passato le sue giornate a parlare di traffico di droga, di furti, di rapine, di omicidi, ha finto di essere un mafioso ed è risultato credibile. Quindi immaginate cosa bisogna fare per diventare credibili all'interno di un'organizzazione del genere. Insomma, ha iniziato una vera e propria scalata nell'organizzazione, è diventato più mafioso dei mafiosi stessi per uno scopo, come dire, positivo, no? Però fingendo, ma immedesimandosi. Anni che lui ha vissuto veramente sul confine tra il bene e il male, tra l'onestà e il crimine. Questa è la storia di Joe Pistone, alias Donny Brasco, il più famoso infiltrato della storia. Chi è quello là? Ciao, chi? Bellezza. Quello seduto al bar, yeah, sì. Quello coi baffi. Oh, sì. Ah, è Don. Don il gioielliere. L'ha introdotto Gilli. Gilli che? Gilli Quattrocchi? No, no, non quello stronzo di Gilli Quattrocchi. Gilli, quello del Queens. Gilli. Anche lui è un affiliato? No, no. Ancora no. Ancora no? Già. Se ho qualcosa da piazzare, lui mi può essere utile. Hai qualcosa da piazzare? Lascia stare se ce l'ho, dico per dire. No, dai, hai qualcosa da piazzare. Ma lascia stare, voglio sapere se ce l'avessi, lui può essermi utile o no. Con tutti i debiti che hai coi capi, troppa roba dovresti riuscire a piazzare. Questa è la voce inconfondibile di Giancarlo Giannini, che doppia Al Pacino nel film del 97, film Donny Brasco, film che ha reso popolare la storia del nostro protagonista di oggi, Joseph Dominic Pistone, che si è infiltrato nelle famiglie malavitose dei Bonanno e dei Colombo, due delle cinque cosche che per anni hanno dominato la scena criminale di New York. Un'operazione sotto copertura che è ruotata attorno a lui per sei anni, un'operazione che ha dato un colpo mortale a Cosa Nostra nella Grande Mela a New York, ma soprattutto ha svelato per la prima volta ai federali americani la struttura interna delle famiglie mafiose, i meccanismi più complessi e difficili da capire da fuori. Prima dell'operazione non si conoscevano le gerarchie, i traffici, le alleanze della mafia newyorkese. Su Donny Brasco, o meglio su Joseph Pistone, su tutti e due, pende ancora oggi, a decenni dai fatti, una taglia da $500,000, è il prezzo del suo sgarbo a Cosa Nostra. Joe Pistone oggi vive sotto falso nome in una località segreta, virtualmente non esiste più. Sono cresciuto in un vecchio quartiere italiano dominato dalla mafia. Sapevo quindi come atteggiarmi. Conoscevo la parlata, il modo di camminare, ma ero consapevole in ogni istante che si trattava di lavoro. Sono stato me stesso. Non fingevo di essere un tipo mafioso. Inoltre, ho avuto molta pazienza. Sono riuscito a coltivare quei tipi, a far credere loro che ero Donny, il ladro di gioielli. Bisogna conoscere la loro lingua, il proprio carattere. Bisogna sapere come gestiscono la loro organizzazione, cos'è che li fa infuriare. E conoscevo le pietre preziose, i sistemi d'allarme. Ero capace di entrare negli edifici e aprire le casseforti. Sapevo come farli guadagnare. Ho iniziato frequentando vari locali, prima a Mulberry Street, Little Italy e a Manhattan, e poi a Brooklyn. Alla fine qualcuno si è avvicinato. Joe Pistone nasce in Pennsylvania, Erie, nel 1939, da una famiglia di italo-americani. Ha lo stesso cognome, per ironia del destino, cioè ha lo stesso nome e cognome di un boss della famiglia Colombo. E in verità la sua è una famiglia onesta, che non ha nessun collegamento, nessuna inclinazione alla criminalità organizzata. Il nonno paterno era arrivato dall'Italia con una delle tante ondate di immigrati alla fine dell'Ottocento e aveva dato vita a una famiglia numerosissima, 9 figli. Joe cresce nel New Jersey, a Paterson, in un quartiere completamente italiano. Il padre gestisce dei bar. Lui è un ragazzo tranquillo in un quartiere tranquillo e naturalmente bisogna non pestare i piedi ai bravi ragazzi, perché la mafia c'è, è silenziosa, ma agisce all'interno del tessuto della comunità. Era un posto perfetto per crescere un ragazzo. Niente crimini, nessuno chiudeva le porte di casa, niente droga da nessuna parte. C'erano alcuni bookmakers e una volta due di loro sparirono. Pensammo che avessero cercato di fregare la mafia. Non sapemmo mai se fossero morti o scappati. Ci trovavamo nel territorio della famiglia genovese. Tutti sapevano chi c'era dentro e chi no. I primi avevano i soldi e le belle macchine. Quello che nel quartiere non si vedeva era il lato oscuro della loro vita. La lotta per il potere. Le persone freddate per cose molto meno importanti dell'aver tentato di fregarti. Gio sa bene cosa bisogna fare, da chi tenersi alla larga, non finisce mai nei guai, è un bravo ragazzo, studia, si laurea in antropologia, vuole entrare nelle forze dell'ordine e questo desiderio gli nasce probabilmente nelle strade del quartiere, perché è un periodo nel quale i mafiosi sono tutti italiani e i poliziotti sono tutti irlandesi, ma ci sono dei poliziotti italiani, il primo era stato tanti anni prima Petrosino, che vogliono determinare, come dire, un'inversione di tendenza. Lui vuol fare il poliziotto. Dopo un anno da insegnante alla Patterson School entra nel Federal Bureau of Investigation. Siamo nel 1969, lui ha 30 anni e nei 5 anni successivi farà, diciamo, la gavetta, svolgerà ruoli diversi, però sa muoversi bene, ha sangue freddo, ha un forte senso del dovere. Nel 74 viene trasferito a New York, assegnato a una squadra che si occupa delle indagini sui furti di camion. Joe è molto bravo a guidare i grandi auto articolati a 18 ruote. Gli viene assegnato un compito delicato sotto copertura, cioè infiltrarsi in una banda che ruba proprio quei camion, spesso su ordinazione. Lui porta a termine l'operazione mostrando un vero talento nel fingersi un malvivente e permette ai federali di arrestare 30 persone nel febbraio del 76. Vista l'esperienza che ha accumulato, l'FBI decide di assegnarlo a un fenomeno analogo ai furti dei camion, i dirottamenti, un business criminale su larga scala nella zona di New York. Funziona così: i veicoli vengono bloccati da uomini armati, l'autista viene fatto scendere con le buone o con le cattive, il camion viene fatto sparire, viene svuotato del carico, che magari può anche essere di 200-300 mila dollari, e dopodiché il mezzo viene abbandonato e fatto ritrovare. E si suppone che dietro a questo fenomeno ci sia la criminalità organizzata, ma naturalmente c'è ancora tutto da scoprire. Così nasce l'operazione Sun Apple, chiamata così perché raccoglie le due iniziative contemporanee a Miami, la Città del Sole, e a New York, la Big Apple, la Grande Mela, cioè operazioni con infiltrati. E a New York tocca a lui, a Joe Pistone. Lui è perfetto, ha già esperienza in operazioni di questo tipo, è di origini siciliane, quindi conosce quell'italiano dialettale, soprattutto ha confidenza col fenomeno mafioso, perché è un fenomeno che era di casa nella sua città del New Jersey, a Patterson. Ci vogliono 6 mesi per mettere insieme tutti gli elementi, perché si studia il personaggio che dovrà impersonare Pistone, si studia il suo background, la sua storia, gli si inventa una vita e deve essere tutto a prova di verifica da parte degli altri. Non può impersonare un criminale qualunque, deve avere delle caratteristiche che risultino, come dire, attraenti per i nuovi amici. Alla fine tutto è pronto, lui può uscire dalla sua vita vera, quella in cui è un agente dell'FBI sposato e con figli, e può calarsi nei panni di un ladro di gioielli. Il nome che viene scelto è Donny Brasco. Può iniziare un'operazione che dovrebbe durare 6 mesi, che invece dura 6 anni. E Pistone per settimane, per mesi fa questa vita, si fa vedere spesso nei posti frequentati dai criminali, non cerca contatti, diventa semplicemente parte dell'ambiente e piano piano la sua identità, cioè quella di Donny Brasco, diventa un dato di fatto per quelli che bazzicano in quei luoghi dove lui si fa vedere. Per i primi 6 mesi frequentai alcuni ristoranti, alcuni nell'Upper East Side, altri a Little Italy. In pratica erano tutti intorno a Manhattan. Mi comportavo come un cliente qualsiasi. Mi sedevo ad un tavolo, ordinavo il pranzo o da bere al bar e restavo lì per un paio d'ore. Non puoi seguire uno schema, non puoi andare nello stesso posto tutti i giorni alla stessa ora. Non è un lavoro con orari d'ufficio per 5 giorni alla settimana. Fai 7 giorni su 7. It's not a 5-day-a-week job, it's a 7-day-a-week job. Il piano di Pistone, cioè dell'FBI, produce i suoi primi frutti e il primo che casca nella rete è un barman che gli compra alcuni diamanti per poi rivenderli. è il primo passo. Ormai Lefty si fida di lui, lo porta in giro nei night club dove si gioca d'azzardo e comincia a fargli conoscere dei personaggi del giro. Sono i primi contatti con i mafiosi della famiglia Bonanno. L'operazione cambia natura perché nel mirino non ci sono più i dirottamenti dei camion. Si alza l'asticella, l'FBI approfitta del contatto di Pistone con i bravi ragazzi e gli ordina di proseguire su questa nuova strada. Arrivano i primi rischi, naturalmente, perché dopo alcuni incontri Pistone viene convocato da tre picciotti. Lo chiudono in una stanza, mettono una pistola sul tavolo e gli dicono: o ci convinci di essere davvero chi dici di essere, o di qui esci con le gambe in avanti. È una specie di interrogatorio. Immaginate la tensione, 5 ore nelle quali lui deve dimostrare, deve convincere, e ce la fa. È uno step decisivo, perché adesso Donnie può essere presentato ai pezzi grossi. I primi sono Tony Mirra, che è un mafioso violento che traffica droga, o Benjamin Ruggero, detto Lefty, o Lefty Two Guns, Lefty Due Pistole, che è un killer della mafia con 26 omicidi all'attivo. E questo sarà un pezzo importante per le indagini di Pistone, anzi di Donnie Brasco. Lefty Ruggero era quello che io definisco un gangster 24 ore. Era un gangster ogni minuto del giorno. Era un profondo conoscitore della storia della mafia. Ottenni da lui tante informazioni preziose. Le informazioni che cita Pistone riguardano non solo le azioni criminali che stanno per essere messe in atto, ma soprattutto la struttura, le dinamiche interne della famiglia Bonanno. E come ci ricorda anche James Carlstrom, un agente dell'FBI che prese parte all'operazione Sun Apple. Ci diceva chi era dentro, chi era fuori, in quali racket erano coinvolti, quello che stava per accadere. Aveva a che fare con persone spietate. Sapevamo chi avrebbe ucciso, chi sarebbe stato ucciso, o i nomi dei nemici. Io ho sempre ragione. Un bravo ragazzo ha sempre ragione, anche quando ha torto ha ragione. In ordine di importanza c'è quello connesso, il bravo ragazzo, il capodecina e il boss. Sì, lo so, lo sapevo. Lo sai? Sì. Che cosa? È come una specie di esercito, una scala gerarchica. L'esercito? Non c'entra niente l'esercito. Quello è fatto di gente che non conosce, che ti manda ad ammazzare altra gente che non conosci. L'esercito. Siamo nel 1978. Joe Pistone ormai sta vestendo i panni di Donnie Brasco da oltre 2 anni. Ha legato molto con Lefty Ruggero, però tecnicamente dipende da Tony Mirra, che è uno che non lascia molto spazio agli altri. E la svolta per l'operazione arriva proprio quell'anno, perché Mirra viene arrestato e condannato per traffico di droga. Ruggero è libero di proporre a Donnie un accordo in esclusiva. Avrebbero lavorato solo loro due assieme, senza dividere i proventi dei loro affari con nessun altro. Vedete, sta facendo carriera. Soprattutto sarebbe stato sempre più coinvolto nelle attività della famiglia Bonanno. Pistone sta veramente camminando sulle uova, anzi sulle lamette da barba. È lì tra il lecito e l'illecito. È un agente dell'FBI, in teoria non potrebbe commettere reati, ma deve rimanere credibile come criminale. L'accordo con Lefty è la chiave d'accesso al livello più alto. Entra a far parte della banda del capo di Lefty, il caporegime Dominic Sonny Black Napolitano. Diventeranno amici e questo sarà la rovina di Sonny Black. Il falco e il gabbiano. Vi sto raccontando le vicende del più famoso infiltrato della storia, Joseph Pistone, alias Donnie Brasco. 6 anni passati a stretto contatto con i killer e i vertici della famiglia mafiosa dei Bonanno a New York, fino a diventare amico di tutti loro, sempre su questo filo sottile che divide il bene dal male, il lecito dall'illecito. Eh sì, perché Joe Pistone ha dovuto convincere tutti di essere un vero criminale, quindi ha indossato l'abito del mafioso. Certo, le sue origini italo-americane sono state, come dire, il primo lasciapassare, ma poi non era solo quello. Deve conoscere bene quel mondo di bravi ragazzi, gente che è pronta a uccidersi, a uccidere uno l'altro in nome del business, però all'interno di parole ben precise, che sono onore e omertà. E dopo mesi di incontri nei bar di Little Italy e dell'Upper East Side, Joe Pistone è entrato inizialmente in punta di piedi dentro a questo gruppo di mafiosi. Sono la banda di Sonny Black Napolitano, capo regime dei Bonanno, è arrivato grazie al killer Lefty Ruggero, lì, quello che nel film del 97 ha la faccia di Al Pacino, il film Donnie Brasco naturalmente, in quella pellicola Pistone interpretato da Johnny Depp, che in un'intervista raccontava come fosse stato colpito proprio dalla capacità di Pistone di reggere a una situazione così stressante e mortalmente pericolosa. He's one of the strongest willed person people I've ever met. È una delle persone con la forza di volontà più forte che io abbia mai conosciuto. È incredibilmente forte. Quando si focalizza su qualcosa, non molla fino alla fine. È incredibile. È una specie di macchina. Una macchina, però, con emozioni forti. È una cosa difficile da spiegare. In un modo strano, Joe, è come loro, come quei mafiosi. Sono molto simili, capisci? Molto, molto simili. Ed è la ragione per cui Joe si è adattato così bene ai panni del mafioso. Lui è così, tremendamente orgoglioso, una persona d'onore, leale, solo che è sull'altro fronte. Pistone diventa frequentatore abituale del locale dove si ritrova ogni giorno la banda di Sonny Black, il Motion Lounge a Brooklyn, praticamente è il loro ufficio. Passano le giornate a parlare degli affari da portare a termine, delle persone da eliminare e soprattutto compongono attimo dopo attimo un quadro sempre più preciso della struttura della famiglia, delle sue ramificazioni nella società newyorkese, del traffico di droga che nel frattempo ha invaso la città. E Pistone comincia a scoprire anche i nomi dei poliziotti corrotti e dei politici collusi. Si sale sempre più in alto, insomma, una vera e propria miniera di informazioni inedite per l'FBI, che non si ferma più alla famiglia Bonanno. Mette in luce proprio gli organigrammi delle altre cosche, l'intera mafia americana. Quello che emerge e che fino a quel momento non si sapeva è che la mafia americana non è una realtà monolitica. Le varie famiglie operano in autonomia, si coordinano su larga scala, applicano una buona convivenza o forse una pace armata all'interno della quale si spartiscono i vari settori di attività. E il rapporto tra Donnie e Sonny Black si stringe sempre di più. Il boss è il tipico mafioso da copertina, sembra uscito da un film, è tipico nel modo di vestire, negli atteggiamenti, nell'improvvisa violenza che mette in campo. Ma Sonny apprezza quel ladro di gioielli così sveglio e rispettoso, gli piace la sua compagnia e la vicinanza a Sonny Black rende Pistone sempre più credibile anche all'interno dell'organizzazione. Garantisce anche per altri infiltrati magari lontano da New York, in particolare a Los Angeles, a Milwaukee, riesce addirittura a combinare un incontro con il boss della città. È la prima volta che un agente dell'FBI è seduto allo stesso tavolo e si guarda negli occhi con un pezzo grosso di questa levatura. E questa operazione, l'operazione San Apple, ormai si sta allargando a macchia d'olio. Ogni informazione porta a nuovi filoni. E poi Pistone ci mette del suo per provare a raccogliere notizie sulle famiglie della Florida. Propone a Sonny Black di aprire un locale nel Sunshine State, proprio in Florida. Il locale si chiamerà King Court, un casinò clandestino. Lo vogliono far diventare il club di riferimento dei mafiosi locali. Sonny accetta e manda proprio Donnie e Lefty a verificare la fattibilità dell'operazione. Ehi là! Donny! Hai portato la cavalleria, Come va, Ricci? Bene, tu? Ups, è tardi, è tardi, è tardi! Allora, avete deciso di venirvi ad abbronzare qua giù voi due, King's Court, visto? Dove ogni uomo è un re. Aspettate di vedere cos'è la sala banchetti, roba da diventare pazzi! Per aprire il locale, per fare affari fuori dal suo territorio, Sonny Black deve però chiedere il permesso ai boss locali, in particolare a uno, il più potente, uno della vecchia scuola, si chiama Santo Trafficante, c'è un cognome che è già un destino, è uno che secondo molte ricostruzioni fu un pezzo importante del complotto che uccise il presidente Kennedy a Dallas. E tutto sta andando secondo i piani, perché Santo Trafficante dà il suo sostegno, mette a disposizione i suoi i rapporti con la polizia locale, perché la polizia locale è in gran parte corrotta. Insomma, il King's Court diventa un ulteriore punto per la mafia, ma quindi un punto di ascolto per l'FBI, che lo riempie di cimici e di telecamere nascoste. Il locale intanto ha successo, è sempre pieno, le famiglie Bonanno e Trafficante stanno spartendosi fiumi di dollari per Donny Brasco e un successo personale, e così lui entra ancora di più nelle grazie del suo boss. Sonny Black chiede a Brasco di gestire gli affari in Florida, di farlo alle sue dirette dipendenze, senza più la mediazione di Lefty Ruggero. Donny Brasco sta continuando a fare carriera. Ciao. Ciao. Come va? Questo Don Trafficante è una gran persona, guarda. Davvero? È uno vecchio stampo, eh? Che te lo dico a fare? Quel pezzo di merda ha avuto tutto questo a disposizione per 50 anni ed è ancora una città di vaccari. Potrebbe essere una Las Vegas qua giù. Chi se ne frega di Sonny Red e dei suoi camion nel Jersey? C'è tutto quello che voglio in Florida. Tu che dici? Torniamo a New York subito o no? Tu non torni. Voglio che rimani qui a rappresentarmi, Donny. Sarai il mio uomo in Florida. Fai marciare quel locale. Ormai Pistone è diventato uno degli uomini più vicini a Napolitano. Forse sono diventati qualcosa di più. Sono diventati amici. Naturalmente bisogna dire che, malgrado i risultati, anzi forse proprio per i risultati, la vita di Joe Pistone è una vita difficile, infernale. Lui è sotto copertura da anni, riesce a vedere la sua famiglia solo una volta ogni 6 o 7 mesi. Come facesse a reggere è difficile, lo ha raccontato lui stesso in un'intervista. Quando tornavo e credevo di essere ancora un padre, scoprivo che non lo ero più, che ero abituato a essere un uomo senza famiglia e che la mia famiglia non era più abituata a me. Ma ero convinto di agire in nome di una società migliore, per un paese migliore. Sapevo che alla fine le mie figlie avrebbero avuto un beneficio da quello che facevo. Era l'unico modo possibile di vedere le cose e la mia famiglia ha capito. Eh sì, un sacrificio supremo. Rinunci a vivere la tua vita per viverne un'altra, rischiando la vita solo, come dice lui, per agire in nome di una società migliore. E intanto il suo nuovo ruolo, la vicinanza con il boss, permettono a Pistone di venire a contatto con tante informazioni. Uno dei filoni che scopre va ricordato perché riguarda un personaggio caro a noi italiani. Tra poco vi dirò di chi si tratta. Sì, nei suoi contatti con Sonny Black, Pistone viene a conoscenza del fatto che una fazione dei Bonanno è composta da siciliani chiamati Zips, mandati qualche anno prima in America per gestire il traffico di droga. È un business controllato da un boss palermitano che si chiama Gaetano Badalamenti, che adesso è latitante in Sud America. Lo schema prevede la lavorazione della droga in Sicilia e l'invio negli Stati Uniti, con una distribuzione che avviene attraverso una catena di pizzerie gestite dalla famiglia, e da qui il nome dell'inchiesta Pizza Connection, sulla quale lavorerà anche dall'Italia Giovanni Falcone in collaborazione con l'FBI. E poi sappiamo purtroppo come è andata a finire. E nonostante il traffico sia scoperto grazie al lavoro di Pistone, i federali non intervengono, e non intervengono per non bruciare tutto il lavoro di Pistone e di Donny Brasco, che intanto era operativo in Florida, tornava spesso a New York. Sonny Black lo ospita a casa sua, passa con lui ore e ore a parlare sul tetto del palazzo dove lui alleva piccioni in grandi gabbie. Nonostante fosse un killer a sangue freddo e un gangster, Sonny era il tipo di persona con cui è piacevole passare del tempo. Certo, parlava di gioco d'azzardo, di droga, magari di chi era al potere nella famiglia, però potevamo chiacchierare anche di altre cose. Amava quei piccioni. Andavamo sul tetto ogni mattina per dargli da mangiare e cambiare l'acqua. E mi dava lezioni di storia sui piccioni. Non che io lo ascoltassi. Dissi ai colleghi dell'FBI: quando tireranno giù le gabbie, potrete dire addio a Sonny Black. You can say goodbye to Sonny Black. Il falco e il gabbiano. Joseph Pistone, che ormai non è più abituato a sentirsi chiamare così, perché il suo nome è Donnie Brasco. Lui sta vivendo questa sua vita alternativa terribile da infiltrato da anni. Grazie a questa vita è entrato, ha ottenuto i favori del suo boss, che è Sonny Black Napolitano, e lui sta passando ai colleghi dell'FBI un fiume di informazioni. Sta vivendo una vita sul ciglio del baratro, basta un errore e lui è un uomo morto. E non è neanche detto che sia sufficiente fare tutto per bene, perché gli imprevisti sono sempre in agguato e lì se ne corrono tanti. Per esempio, Tony Mirra, uno dei primi contatti di Pistone, esce di prigione dove era finito per traffico di droga, e ci mette poco a capire che Donnie Brasco è diventato una risorsa. La rivendica come sua, cioè rivendica la paternità sull'entrata di Donnie Brasco nella mafia. Ne ha diritto, perché l'ha introdotto lui nell'ambiente. Ma Sonny Black non ha alcuna intenzione di mollare, di restituire Donny a Mirra, e allora a lui non resta che alzare il tiro. Convoca una riunione con gli altri capi regime e pone la questione sul tavolo. Come va a finire quell'incontro lo possiamo sentire in una conversazione intercettata dall'FBI tra Lefty Ruggero e Joe Pistone. Hey Donny, let me tell you something. Hey Donny, fatti dire una cosa. Oggi ho avuto una riunione di 4 ore su di te. For what? Donny. E allora? Donny, non dire allora. Ma per cosa? Ma come faccio a saperlo? Non so nemmeno di cosa stai parlando. Ho vinto, tu resti con noi. Non ti abbandono. E neanche Sonny. Tu resti e se ne va Rocky. Gli ho detto di non rompere più. Non ti mollo. Resto con te fino alla morte. E anche Sonny la pensa così? Certo, non ti abbandonerà. Nessuno ti abbandonerà. Non voglio andare con Mirra. Nobody having you. Man, I don't want no part of Mirra. Ma Tony Mirra non molla, sparge in giro la voce che Donny ha rubato $250,000 dai proventi del traffico di droga, li ha rubati alla famiglia. È ancora una volta un processo e ancora una volta Pistone ne esce vivo grazie solo alla sua credibilità. Mirra ormai è un suo nemico dichiarato, l'FBI vuole chiudere l'operazione, Pistone si oppone e rimane sotto copertura. E c'è forse un altro episodio che rappresenta ancora di più il rischio costante che il nostro protagonista corre. È un episodio raccontato anche nel film del 97, magari con qualche differenza. Nel periodo in Florida con Lefty, Pistone aveva utilizzato uno yacht dell'FBI usato in un'altra operazione sotto copertura. Gli agenti in quell'occasione si erano spacciati per sceicchi arabi per incastrare alcuni politici corrotti. Un'indagine che non era ancora di pubblico dominio, che sarebbe dovuta rimanere nascosta per anni, invece qualcosa va storto. La barca che abbiamo usato era sulla copertina di Newsweek. Era un'altra grande operazione sotto copertura. Non sarebbe dovuta emergere per molto tempo. Invece venne tutto a galla. Questo per Pistone ovviamente è un momento drammatico. Ha portato Lefty su una barca dell'FBI. Adesso deve trovare una spiegazione plausibile, altrimenti è un uomo morto. Questa barca è dei federali, Donny. Non credo proprio che sia la stessa barca, Lefty. Sì, che è la stessa. C'è scritto il nome sopra, guarda. The Left Hand. Si chiama come me. Credi che lo sapessi che era dell'FBI? Credi che sia un infame di merda? Di quante volte tu sei venuto nella mia casa? 2 a settimana, forse anche di più, perché... Sì, hai detto bene, anche di più. Ti ho fatto da mangiare. Sì. Se avessi avuto dei soldi, ne avrei... Non ho mai avuto dei soldi, ma se mai avessi... $100 in tasca te ne darei 50, vero? Sì, vero. Se tu sei un infame... Se tu sei un infame, io sono il più grande fesso di merda della storia della mafia. E beh, immaginate la tensione di quei momenti. Ancora una volta Pistone se la cava, però ormai il gioco ha raggiunto una fase cruciale. Donny Brasco non è più solo un fiancheggiatore, sta per fare un passaggio ulteriore, un fatto impensabile fino a quel momento. Sonny Black lo propone agli altri boss per l'affiliazione. È il primo agente dell'FBI che sta per diventare membro effettivo di Cosa Nostra. Should I stay or should I go now? Sonny Black vuole premiare Donny, il suo amico Donny, l'uomo che gli ha fatto fare tanti soldi in Florida, e propone agli altri capi regime della famiglia Bonanno e la sua entrata, la sua affiliazione. Il parere di tutti è favorevole. i responsabili dell'FBI sono sempre più preoccupati, perché all'interno del clan è scoppiata una guerra. Sonny Black Napolitano è in prima linea, ne è il protagonista. 2 anni prima un boss di Sonny, Carmine Galante, era stato ucciso. Insomma, a questo punto arriva l'ordine che deve chiudere quella vicenda. Sonny deve far fuori 3 capi regime rivali, e lo fa. E Pistone è veramente in pericolo, è esposto a ritorsioni, a vendette. I federali vogliono chiudere l'operazione, ma lui tiene duro. Ormai è forse come una droga, non riesce più a tirarsi indietro, anzi dice che può fare ancora di più. Però c'è un fatto nuovo che taglia la testa al toro, perché per entrare in Cosa Nostra c'è questa piccolissima formalità che ogni aspirante deve aver compiuto almeno un omicidio. Napolitano ordina a Donny di trovare un capo rivale, Bruno Indelicato, e di ammazzarlo. Va bene tutto, ma questo è un confine che l'agente Pistone non può oltrepassare. Va bene che è su una linea sottile lungo la quale si è mosso per 6 lunghi anni, ma non può anche uccidere. Insomma, è il momento di rimettere nell'armadio i panni di Donny Brasco, il quasi affiliato. Siamo nel 1981. Pistone viene messo al sicuro, sparisce. 2 giorni dopo 3 agenti dell'FBI si presentano al Motion Lounge, gettano sul tavolo da biliardo davanti agli occhi di Sonny e dei suoi le foto di Pistone all'Accademia in divisa, in addestramento con il distintivo. Lo conoscete sotto il nome di Donny Brasco, che non è il suo vero nome. Era un agente dell'FBI nel pieno delle sue funzioni. Potete contattarmi qui. Chi vuole parlare? Voi ci credete a quegli stronzi? Donny un poliziotto, no? Figurati. Se la sono inventata bene. La trappola della barca era una trappola per farci pensare che Donny è un infame. Quasi ci cascavo. Ma tu Donny lo conosci? Noi lo conosciamo. Avete capito bene, l'amicizia tra Napolitano e Donny Brasco era talmente forte che Napolitano non crede, pensa che sia un trucco. Questo vi fa capire, insomma, quanto abbia lavorato bene il nostro protagonista. Nei giorni successivi i federali propongono a Napolitano di metterlo sotto protezione, perché sanno bene cosa vuol dire per lui aver introdotto Pistone all'interno della famiglia. Il capo regime rifiuta, va incontro al suo destino. Intanto ormai le cose sono chiare. Pistone era un agente dell'FBI, è un agente dell'FBI. Cosa Nostra mette una taglia da $500,000 sulla sua testa. 17 giorni dopo la visita degli agenti al Motion Lounge, Sonny Black viene convocato a una riunione, capisce? Lascia i contanti che ha in tasca e l'orologio al bar. Esce, il suo corpo viene ritrovato sulla sponda di un fiume a New York, alle mani tagliate, quelle mani che hanno accolto un infame nell'organizzazione. Nella famiglia Bonanno comincia un repulisti generale, vengono uccisi tutti quelli che si sono fidati di Donny Brasco. Viene convocato anche Lefty Ruggero, l'FBI lo scopre e riesce a arrestarlo prima che ammazzino anche lui. 4 anni fa un ladro di gioielli noto come Donny Brasco fece il suo ingresso nella mafia. L'anno scorso, in un processo a New York, Brasco si è rivelato. Il suo vero nome è Joseph Pistone, agente FBI sotto copertura. L'agente Joseph Pistone testimonia in una 20 di processi e il governo federale, grazie a queste testimonianze, ottiene 235 condanne. Ma Benjamin Lefty Ruggero non molla, non si pente, non accetta la proposta di entrare nel programma di protezione testimoni. Viene condannato a 20 di prigione, rimane quello che da noi definiamo l'irriducibile. Uscirà 11 anni dopo malato terminale di un cancro che lo ucciderà di lì a poco. Nelle udienze in aula nel quale aveva incontrato Pistone aveva sempre manifestato un profondo disprezzo per l'ex amico e traditore. Gli effetti dell'operazione Donny Brasco sono devastanti per Cosa Nostra. A New York la famiglia Bonanno viene praticamente azzerata, anche la cosca di Milwaukee e i mafiosi della Florida pagano un prezzo carissimo, viene incarcerato anche il vecchio boss santo trafficante e Joseph Pistone testimonierà anche nel processo alla Pizza Connection, quella di Don Tano Badalamenti, all'inizio della fine della fase gloriosa di Cosa Nostra americana. Pistone rimane nell'FBI fino al 96, poi scrive libri raccontando la sua esperienza, insegna ai giovani poliziotti a lavorare sotto copertura, fa il consulente per le polizie di mezzo mondo, dalla Russia alla Gran Bretagna, ma vive ancora sotto falso nome con la sua famiglia in una località sconosciuta. È passato tanto tempo, ma quella taglia non l'ha mai cancellata nessuno. Cosa Nostra difficilmente dimentica. La mafia non ritira mai un contratto che ha messo sul mercato. Ma non credo che oggi ci sia qualcuno che si alza ogni mattina pensando a come fare a trovarmi e ammazzarmi. Ci può essere il cowboy pazzo che vuole mettersi in mostra e far vedere quanto è bravo ad aver ammazzato Donny Brasco. E allora io resto prudente e dico solo che mi chiamo Joe. Abbiamo raccontato spesso storie al confine tra il bene e il male. Qui veramente abbiamo camminato su un filo per sei anni nei quali il nostro Joseph Pistone, alias Donny Brasco, ha dovuto comportarsi e agire da criminale per il bene superiore, quello di liberare la sua nazione da un cancro quale è la mafia. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, hanno volato in alto anche a costo di pagare un caro prezzo, come questo di non vedere la propria famiglia per 6 anni e di rischiare la vita ogni giorno per 6 anni. Questo è quello che ha fatto Joseph Pistone, che per 6 anni è stato conosciuto come Donny Brasco. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, venite a trovarmi, a trovarci sui miei e sui nostri social. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Giovanni Savarese, produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.